solo premendo bottoni a caso. Mi hanno chiesto come ho fatto a far funzionare tutto al primo tentativo. Io ho risposto: non lo so, ho copiato da uno su Reddit e ho cambiato il font. Ha cambiato il font, signore! Netrimsiona se va dritto. Ha cambiato il font, signore. Tu pensi di aver capito tutto, ma in realtà hai solo premuto CTRL o Z nel momento giusto. Tu pensi di aver capito tutto, ma in realtà hai solo premuto CTRL Z nel momento giusto. Solo installare una stampante e invece ho avviato una startup. Ho fatto click su accetta pensando fosse un cookie. Ora ho due figli, un mutuo e lavoro nel metaverso. Ricorda quando tutto funziona al primo colpo. Non festeggiare, sospetta, perché dietro ogni successo c'è un incompetente con fortuna e uno bravo licenziato. Successo! Sostantivo maschile, probabilità di errore in ritardo di 92%. Perché dietro ogni successo c'è un incompetente con fortuna, è uno bravo licenziato. Successo. Sostantivo maschile, probabilità di errore in ritardo del 98%.